Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Stasera Viva Così, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, anche questa sera in vostra compagnia per raccontarvi la giornata economico-finanziaria, una bella giornata ricca di notizie finanziarie che arrivano da Roma, dove c'è stato il via libera dell'Aula del Senato alla fiducia sulla manovra economica, quella che ci dovrebbe riportare verso il pareggio di bilancio nel 2014. Ci sono tante novità di questa manovra che è stata largamente emendata ieri pomeriggio proprio per presentarsi all'appuntamento con il Senato, e dalla prima formulazione numerosi gli aggiustamenti che sono arrivati, le correzioni, gli emendamenti, dai tagli alle agevolazioni fiscali che sono moltissimi e assistenziali, arriveranno circa 20 e non più 15 miliardi ipotizzati dal Ministro dell'Economia in una fase iniziale. Come vi dicevo, l'obiettivo della manovra è portare al pareggio di bilancio il nostro Stato nel 2014, modifiche che riguardano più fronti, costi della politica, ticket sanitari, si riparte con questi 10 euro a partire dalla prossima settimana su visite specialistiche e analisi, ritocchi alle pensioni, di nuovo i nuovi bolli sui conti titoli che sono stati modificati almeno 3 o 4 volte rispetto alla stesura iniziale dei provvedimenti, e poi il tema della liberalizzazione delle professioni, i premi ai comuni che privatizzano, la stretta su bonus e stock option, insomma chi più ne ha più ne metta. Ne parleremo largamente tra qualche minuto con il nostro collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Parleremo poi naturalmente di borsa, perché chiaramente anche alla luce del percorso della manovra economica gli investitori internazionali guardano anche a questa per fare le loro valutazioni sui nostri titoli di Stato e sulla nostra borsa. Cos'è successo oggi? Che la mattina è partita male, è sempre andata malino in Europa con cali vicini al punto percentuale su tutti gli indici. Milano è stata un pochino sull'ottovolante perché stamattina, appena sono partite le contrattazioni, ha avuto un avvio con un ribasso di un punto, poi pian piano ha risalito la china, è arrivata a guadagnare mezzo punto percentuale. Però che cosa è successo? Che c'è stata l'attesissima asta di BTP a 5 e 15 anni, a due aste quindi, che sono andate molto bene perché la domanda è stata piuttosto forte da parte degli investitori internazionali, però il Tesoro ha dovuto riconoscere rendimenti in forte rialzo e alla luce appunto dell'esito di queste due aste molto importanti, il mercato azionario ha cambiato di nuovo direzione, si è di nuovo rivirati verso il basso. L'indice, a partire da metà giornata, ha ripreso a scendere di circa un punto, adesso perde l'1,20%. Poi naturalmente, come sempre, vi racconteremo anche le storie di Piazza Affari. Di che cos'altro parleremo a Focus Economia? Faremo con un gestore obbligazionario un focus su questa asta di oggi, su quella che si è svolta 2 giorni fa, quella di botta punta annuali, che ha dovuto lo stesso riconoscere tassi di rendimento piuttosto superiori rispetto agli ultimi appuntamenti del Tesoro. Faremo il punto anche su quelli che sono i prossimi appuntamenti del Tesoro, qual è ancora il fabbisogno da parte appunto dello Stato, e soprattutto a quali altri appuntamenti, anche altri economici, si guarda per così dare l'indirizzo all'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, un settore appunto che si guarda con grande fibrillazione in questa fase. E lo si guarda con grande fibrillazione perché le agenzie di rating continuano ad emettere verdetti e giudizi sui titoli di debito ovunque, sono molto rigide e severe le tre sorelle americane con gli stati sovrani dell'Eurozona. Secondo l'interpretazione di qualcuno, sono un po' meno rigide e severe con il debito americano, anche se ieri Moody's ha detto: vabbè, allora sbrighiamoci un po' a metterci d'accordo in congresso sull'aumento del tetto del debito, perché altrimenti noi siamo pronti a declassare la solidissima AAA dei treasury americani. Questo è un po' il punto della situazione, di cui parleremo anche con il nostro Mario Platero da New York più tardi, perché tra l'altro in tutto questo anche gli Stati Uniti hanno avuto la loro piccola Grecia, perché il Minnesota è andato in default, e per la verità mi raccontano anche che se le agenzie di rating fossero molto rigide nel fare una valutazione appunto delle condizioni finanziarie degli Stati Uniti d'America, dei singoli stati, ormai anche per quello che riguarda la California ci sarebbe il tracollo, il default definitivo. Quindi insomma tante situazioni di cui discutere anche dall'altra parte dell'oceano. 349-238-6666 il numero se volete interagire con noi per i vostri messaggi. Adesso tutte le altre notizie in breve. E allora, il primo flash delle nostre headlines è sempre quello dedicato all'andamento del prezzo del petrolio, che oggi a New York ha aperto in rialzo a $98,28 al barile. E tra l'altro, a proposito di materie prime, vi aggiungo subito che anche l'oro oggi, sempre per questa tendenza in momenti delicati sui mercati come quello che stiamo vivendo in questo momento, a ricercare delle situazioni di investimento sicure, ritenute sicure o comunque rifugio, dopo che il franco svizzero nei giorni scorsi ha ritoccato nuovi record verso il dollaro e verso l'euro, oggi l'oro ne ha toccato un altro a New York a $1,590,80 l'uncia. E non dico il barile, perché sennò cominciano subito a prendermi in giro gli ascoltatori, quando mi capita spesso e volentieri di avere questo refuso. Per cui oro a nuovi record e apertura in rialzo anche per il petrolio. A proposito di petrolio, sapete cos'è successo in Libia? Il governo libico ha fatto sapere oggi ha interrotto ogni collaborazione con l'ENI, il nostro cane a sei zampe, lo ha annunciato il primo ministro libico, lo ha scritto la Reuters su Twitter. Pensate un po' anche che modalità di comunicazione con cui si apprendono le notizie. Con l'ENI è finita per davvero, ha detto il primo ministro libico davanti alla stampa, annunciando l'interruzione di ogni collaborazione con l'italiana ENI. Il premier ha deplorato la circostanza che Roma abbia violato un accordo di non aggressione siglato 3 anni fa con la Libia, partecipando ai raid recenti della NATO contro il regime di Muammar Gheddafi. E andiamo al di là dell'oceano con così una sintesi delle notizie che vi ho già anticipato. L'agenzia di valutazione finanziaria Moody's ha annunciato che potrebbe abbassare il rating degli Stati Uniti, attualmente il migliore possibile, c'è una tripla A sui treasury americani. Moody's ha messo sotto sorveglianza il rating statunitense in vista di un eventuale abbassamento, data la probabilità crescente che il tetto del debito non sia alzato per tempo. C'è tempo fino al 2 agosto per prendere questo provvedimento. I dati macroeconomici diffusi oggi dagli Stati Uniti, le richieste di disoccupazione la settimana scorsa sono calate di 22.000 unità a quota 405.000, gli economisti puntavano su un ribasso a 415.000, per cui mi sembra che sia un dato migliore delle attese. Poi monitoriamo i consumi americani. Le vendite al dettaglio a giugno hanno registrato un rialzo dello 0,1%, c'erano previsioni invece per un ribasso e quindi anche questo dato sembra essere migliore delle attese. Le scorte aziendali americane sono salite in maggio dell'1%. E poi abbiamo un dato invece societario importante, perché oggi, visto che sono riprese le trimestrali, oggi abbiamo avuto la prima grande banca d'affari a rassegnare il suo bilancio trimestrale. JP Morgan ha archiviato il secondo trimestre di quest'anno con un utile netto in crescita del 13% a $5,430 milioni. L'utile per azione è pari a $1,27, superiore alle stime degli analisti che invece avevano previsto un utile di $1,21. Tra l'altro non vi ho detto come si sta comportando Wall Street, è appena positivo il Dow Jones, più 0,12%, il Nasdaq invece flette dello 0,15% e JP Morgan sta andando molto bene a Wall Street, perché era il miglior titolo con un rialzo di circa 3,5 punti. Le agenzie di rating, Fitch, dopo Moody's negli Stati Uniti, ieri Fitch è arrivato con un nuovo taglio del rating sulla Grecia, a prescindere dal fatto che questa notizia ci sorprende relativamente, ma c'è stata una nuova fortissima presa di posizione da parte della Commissione europea nei confronti di questa decisione. Bruxelles ha detto di essere rammaricata della decisione di Fitch e quindi insomma si profila davvero una lotta abbastanza forte in vista delle misure che Bruxelles prenderà appunto per chiedere una revisione dell'organizzazione delle attività delle agenzie di rating. Vi anticipo anche rapidamente la notizia sull'asta italiana. Oggi il Tesoro ha collocato BTP a 15 anni ad un tasso del 5,90%, il massimo dal lancio dell'euro, una domanda che è stata pari a 2,6 miliardi, quindi quasi doppia rispetto a 1,72 miliardi offerti. Il BTP a 5 anni è stato venduto invece al 4,93%. Qua siamo ai massimi dal giugno del 2008, quando eravamo nel pieno della crisi finanziaria recente. Lo spread fra BTP e Bund si è allargato oggi fino a superare di nuovo i 300 punti. Prima di andare a parlare della manovra finanziaria, volevo anche raccontarvi che l'Economist ci dedica la sua copertina, non è che sia molto bella, la crisi dell'euro che si sposta all'Italia, porta la moneta unica europea sul filo del rasoio. La copertina dell'Economist mostra il profilo dell'Italia sormontato dalla divisa europea e descrive la nuova pericolosa fase della crisi che rende la stessa moneta unica ora a rischio. Il settimanale descrive i fatti dell'ultima settimana dell'attacco ai mercati all'Italia e punta ancora una volta il dito contro la politica italiana, citando anche la discussione nella quale il presidente del Consiglio Berlusconi ha scagliato insulti da strada, dice l'Economist, contro il ministro dell'Economia Tremonti sul nuovo piano di austerità. Oggi è stato diffuso il bollettino mensile della Banca Centrale Europea, che ha espresso timori per la propagazione della crisi verso i nuovi paesi dell'Unione Europea. Ha parlato, ovviamente, ha ammesso che quello attuale è un momento molto difficile per i conti pubblici dell'area euro, ha ammesso di questo balzo dello spread anche per forte domanda dei Bund tedeschi. Tassi rimangono ancora accomodanti, ha detto la BCE, ma manteniamo la nostra alta attenzione sull'inflazione. E a proposito dell'inflazione, oggi è stata confermata quella italiana di giugno. L'Istat appunto conferma che l'indice dei prezzi al consumo in Italia è al 2,7%, al top dal 2008. Il CNEL oggi ha diffuso un rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011. Aumenta il divario nord-sud su occupazione e questo appunto è uno degli aspetti più fortemente evidenziati da questo rapporto, un vero e proprio allarme a rischio il 28,8% dei giovani. A margine della presentazione del rapporto, Andrea Viali ha intervistato il presidente del CNEL, Antonio Marzano, chiedendogli innanzitutto appunto gli aspetti principali che emergono da questo studio. Evidenza alcune cose positive, cioè le politiche attuate, ma anche la predisposizione favorevole delle parti sociali, cioè delle imprese e dei sindacati, ha evitato una caduta maggiore dell'occupazione, che si sarebbe potuta essere. Per esempio, si sono ridotte le ore di lavoro piuttosto che ridurre il numero dei posti di lavoro nelle aziende. Si è accresciuta la copertura degli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, eccetera. Quindi a questo punto, in termini di occupazione, di perdita di posti di lavoro, l'Italia ha avuto risultati migliori di molti altri paesi europei, anche se la Germania ha fatto ancora meglio, ovviamente. Ora, a questo punto però, il problema è se l'Italia non torna a crescere. Se cresce a un tasso di sviluppo che oggi come oggi, per quest'anno, è previsto con lo 0,7%, come si fa a creare posti di lavoro? E contemporaneamente a far aumentare anche la produttività del lavoro. E noi abbiamo bisogno di tutte e due le cose, più posti di lavoro, soprattutto per i giovani che sono stati più colpiti dalla crisi, ma anche più produttività perché abbiamo bisogno di essere competitivi verso l'estero, non abbiamo materie prime, le dobbiamo acquistare all'estero e per fare questo bisogna essere competitivi. Anche da ex ministro, lei pensa che la manovra che il Parlamento si appresta ad approvare vada in questa direzione? Guardi, ci sono delle cose che vanno in questa direzione, per esempio l'incentivo all'imprenditoria giovanile, alcune forme di incentivo al sud, anche se queste durano soltanto un anno e bisogna evitare di fare misure troppo brevi perché poi uno si chiede e dopo che succede, si crea incertezza sul futuro. Al tempo stesso però bisogna segnalare che il risanamento della finanza pubblica è più agevole se c'è sviluppo dell'economia. Se non c'è sviluppo adeguato dell'economia è più complicato avere il risanamento della finanza pubblica. Dunque le priorità, bisogna sempre ricordarsi, sono due. Bilancio pubblico da risanare e crescita. Il patto di stabilità, che si cita sempre, era un patto di stabilità e crescita. Con il cambio di colonna sonora, come sapete, annunciamo anche il cambio di argomento, ma il tema è un po' quello che ci sta facendo da filo conduttore un po' di tutte le trasmissioni da qualche giorno a questa parte. La manovra economica, quella che oggi ha avuto il via libera, la fiducia ha avuto il via libera oggi da parte dell'Aula del Senato, con 161 sì, 135 no, 3 astenuti. Il provvedimento ora passa alla Camera, che dovrebbe licenziarlo con nuovo voto di fiducia domani in serata. C'è un fortissimo auspicio verso senso la chiusura della discussione sul provvedimento entro domani, per poi andare all'esame del mercato lunedì prossimo, anche se oggi un po' il mercato ha già ragionato sulle misure prese, soprattutto sulle numerose revisioni che sono state fatte rispetto alla prima formulazione dei vari provvedimenti contenuti in questo decreto che sale a 45 miliardi. L'Italia va verso, con tutte le misure previste, l'ambizioso progetto del pareggio di bilancio nel 2014. Le modifiche sono spalmate appunto su più fronti, su più temi, e ne abbiamo parlato anche prima. Abbiamo interventi sui costi della politica, i ticket sanitari, sui quali già molti ascoltatori ovviamente sparano dei commenti molto duri, ritocchi alle pensioni, anche in questo caso viene sostanzialmente, come chiesto, un contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro, su quelle più alte naturalmente, nuovi bolli sui conti titoli ancora una volta rimodulati rispetto ai provvedimenti iniziali, e insomma di tutto questo parliamo con il nostro Dino Pesole, che saluto. Dino, buonasera. Buonasera Debora. Allora, ce lo diranno, come dicevo, i mercati lunedì, quando il provvedimento domani sera avrà il via libera definitivo. Si va sulla strada giusta per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014? Qual è la sensazione a Roma, Dino? Beh, l'obiettivo del pareggio di bilancio, con la manovra così come è stata rafforzata, certamente è più credibile, perché quando è entrata al Senato la manovra assicurava solo 25,3 miliardi, mancavano all'appello oltre 15-17 miliardi. Adesso, col meccanismo della cosiddetta clausola di salvaguardia, formalmente la manovra li assicura, e quindi nel 2014 questo obiettivo, se non accade nulla, ovviamente dovrebbe essere realizzato. Il problema fondamentale... Aspetta, Dino, un attimo solo, ci spieghi tecnicamente in che cosa consiste questa clausola di salvaguardia, sulla quale peraltro ieri anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha puntato un po' il dito, perché lui dice: speriamo che non si traduca in un aumento dell'imposizione, come tu sottolinei stamattina sul Sole 24 Ore. Cosa vuol dire? Questo è il rischio fondamentale, perché intanto questa manovra nel passaggio al Senato cresce nella sua dote di oltre 20 miliardi e sono tutte entrate, e quindi sicuramente il rischio di una crescita della pressione fiscale c'è. E la clausola di salvaguardia è essenzialmente questa, cioè si dispone che il taglio delle agevolazioni fiscali, vale a dire di tutte le formule di detrazione bonus di cui dispone l'attuale ordinamento, dalle detrazioni per carichi di famiglia a, non lo so, a agli sconti che possiamo avere per la palestra o, che so io, per l'asilo nido, che questo taglio delle agevolazioni fiscali avvenga dal 2013 in modo orizzontale, vale a dire verrà operato un taglio del 5% nel primo anno e del 20% nell'anno successivo. Questo ovviamente è il meccanismo che consente a Tremonti di mettere in manovra i 20 miliardi. E lì si dice però che se entro il settembre del 2013 la legge delega sul fisco invece verrà esercitata, vale a dire entrerà effettivamente in vigore, questo taglio non si applicherà, perché a quel punto si applicherà un'altra cosa, che è quella prevista dal disegno di legge delega, vale a dire un altro taglio, ma a questo punto sulle agevolazioni di tipo assistenziale, ad esempio le false pensioni di invalidità, tanto per dirne una. E dunque questo meccanismo alla fine però sia nell'un modo che nell'altro il rischio che porti a un aumento delle tasse c'è, e il dubbio che coglie tutti noi è esattamente questo, cioè ma la delega fiscale non doveva servire a ridurre le tasse? Se lo chiedono molti ascoltatori, anche che ritengono che per la verità quella sia una promessa mancata, anche se poi effettivamente quello su cui ci interroghiamo è anche comunque dove si vanno a prendere i soldi per poter mettere in piedi una manovra di questa portata. E per rafforzare questo concetto, Giulio Tremonti oggi ha evocato addirittura una grave sciagura, quella del Titanic. Sentiamolo. O si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è, o è comune europea o non è, senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Non è solo una questione specifica di singoli stati, è una questione comune che riguarda la credibilità politica dell'euro e dell'Europa. Serve una visione alta sul nostro futuro, serve la costruzione di una governance capace di guidare unitariamente e autorevolmente i 17 Paesi membri verso un destino comune. La logica politica, che da sempre è parte della costruzione europea, la logica di risolvere i problemi interni dei Paesi membri per facilitare il processo di unione, si è come ribaltata. In alcuni Paesi sembra che si antepongano i problemi interni alla costruzione comune. L'estrema destra della destra sta dando in molti parlamenti un contributo negativo in questo senso. Ora serve un duro e responsabile lavoro comune nel paese per il paese, ha aggiunto Tremonti. La manovra esatta e corretta è delineata sull'asse del tempo esattamente come concordata in Europa, ha aggiunto il ministro dell'economia. Il vincolo del pareggio è assoluto. Ciò che serve ora è un duro, responsabile lavoro comune nel paese per il paese. La manovra di finanza pubblica è esatta e corretta ed allineata sull'asse del tempo esattamente come concordato in Europa. Nessuno ci chiede di fare il pareggio di bilancio nel 2011, ma tutto impone di definire già dal 2011 l'intero percorso per arrivare al pareggio di bilancio nel 2014, così costituendo da subito un vincolo assoluto al pareggio, un vincolo insieme giuridico e politico. Il nostro lavoro non termina oggi. Dovremo insieme maggioranza e opposizione, introdurre nella nostra Costituzione la regola d'oro del pareggio di bilancio. Dino Pesole, come tu ci spiegavi prima, praticamente questa manovra per arrivare a questo improcrastinabile obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014 contiene molte iniziative appunto di entrata, però ho visto che ci sono anche, Tremonti lo ha enfatizzato questo aspetto, 16 azioni per la crescita del paese, perché in ogni caso questo è anche un altro obiettivo fondamentale che non ci possiamo dimenticare. Ci puoi dare qualche indicazione su quali azioni per la crescita il ministro prevede, sono ritenute soddisfacenti, ci saranno discussioni anche su queste iniziative? Beh, c'è una parte obiettivamente sulla crescita, anche se io ho qualche dubbio che la crescita si possa fare per decreto, però comunque certamente ci sono delle iniziative, ad esempio con gli sgravi fiscali per i nuovi assunti, il credito d'imposta al sud, finalmente ritorna. Anche se non è ben chiaro dove e come la parola liberalizzazioni, che è fondamentale per crescere nel nostro paese. Il problema di fondo però è che questa manovra deve rispondere, per essere efficace e anche digerita dall'opinione pubblica, a criteri di equità. Allora, secondo me da questo punto di vista c'è qualche cosa che non funziona. Io penso che il ministro Tremonti abbia perfettamente ragione nel dire che è esattamente quello che ci chiede l'Europa. Il problema però è che nel momento in cui si chiede agli italiani uno sforzo che equivale a oltre 20 miliardi di nuove tasse, forse un segnale forte e potente subito sul taglio dei costi alla politica non è, diciamo, pura demagogia o populismo, ma perché tutti siano chiamati a fare la loro parte, andava dato, e invece questo c'è, ma molto, in misura molto ridotta, molto quindi, più blando, infatti. Ecco, questo è un po' il punto, cioè un po' squilibrato. Dino, poi devo lasciarti. Il tema delle privatizzazioni è stato completamente accantonato, anche perché lì, peraltro, anche un tuo autorevole collega del Corriere della Sera questa mattina, Massimo Mucchetti, diceva sì, vabbè, enfatizziamo anche questa possibilità di incasso che può arrivare anche dalle privatizzazioni di tesori dello Stato, quello che vogliamo, però in realtà forse non si ha ancora una ragionevole previsione degli incassi che si potrebbero ottenere da operazioni di questo tipo. Beh, sono assolutamente d'accordo, anche perché per privatizzare, vale a dire per vendere, ci vuole qualcuno che compri e che il tutto non equivalga a una svendita. Le attuali condizioni di mercato non consentono di vendere asset pubblici a prezzi, diciamo, concorrenziali. Interessante. E quindi questo è un problema serio, quindi le privatizzazioni vanno fatte, ricordo che vanno a riduzione del debito peraltro, quindi l'effetto sul deficit è solo nella minore spesa per interessi, ma comunque, a parte questo tecnicismo, vanno fatte, ma vanno ponderate e bisogna scegliere il momento giusto. Abbiamo un intervento di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, sul tema delle privatizzazioni, sentiamo. Secondo noi si poteva fare di più sui tagli di spesa pubblica, fare meno aumenti di tasse, si poteva ragionare di più su liberalizzazioni e privatizzazioni, perché appunto quello che per il momento è inserito mi sembra abbastanza poco. Vediamo adesso che cosa succederà in questi giorni sui mercati. Io mi auguro che, come dire, comunque l'approvazione della manovra dia il senso che l'Italia appunto è un paese stabile e che quindi non ci siano di nuovo attacchi speculativi diciamo sui mercati, perché questo porta a un impoverimento di tutti, no? Da parte dei cittadini, delle imprese, porta problemi alla spesa pubblica, quindi vediamo che cosa succede. Questo passaggio dell'approvazione della manovra comunque è un passaggio fondamentale. E infatti, per andare, come ribadisco, alla prova dei mercati. Dino, ti devo salutare, ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie a Dino Pesola. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi per gli ascoltatori che ci chiedono qualche dettaglio in più rispetto, per esempio, a come è stata rimodulata l'imposta di volo sui dossier titoli o su quali saranno i nuovi ticket sulle visite, vi darò magari qualche dettaglio in più. Saluto anche l'ascoltatore che questa veramente non me l'avevano mai detta, Rosciani, sfacciatamente berlusconiana, io che ho sempre pensato di avere un tono assolutamente neutrale nel racconto delle notizie, oggi mi sono meritata anche questo apostrofo molto divertente. Saluto l'ascoltatore che ci ha scritto, a tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Sì, so che vi fa abbastanza inorridire la questione dei tagli dei costi alla politica che abbiamo sollevato con Dino Pesola. Misure serie da quel punto di vista non ne abbiamo viste, tutto procrastinato, mentre quando si tratta appunto di poter incassare qualcosa subito laddove è facile farlo, ticket sanitari, l'imposta di bollo sui conti titoli, è chiaro che si interviene laddove non c'è spazio di discussione con le parti deboli delle trattative. Detto questo, per quegli ascoltatori che ci hanno chiesto come funzionerà, per esempio, teoricamente, anche perché la raccontiamo da una settimana e tutte le volte che l'abbiamo raccontata è drasticamente ricambiata ogni volta, secondo lo stato dei fatti e gli emendamenti apportati ieri, per esempio l'imposta di bollo sui depositi titoli sarà sempre di 34,20 euro per i dossier titoli che varranno fino a 50.000 euro, quindi non ci sarà più una immediata nuova tassazione da 120 euro. Fino ai conti titoli da 50.000 euro rimane a 34,20. Dal 2011 sarà di 70 euro per gli importi, quindi da quest'anno da subito aumenta a 70 euro per gli importi fra 50 e 150.000 euro di valore del dossier, 240 tra 150 e 500.000 euro di dossier, e la nuova imposta di bollo sarà di 680 euro per i dossier titoli superiori ai 500.000 euro. Dal 2013 l'imposta per queste ultime tre categorie di importi sarà aumentata rispettivamente di 230, 680, 780 e 1.100 euro, per cui si va a colpire evidentemente i portafogli di investimento un po' più corposi, non i risparmiatori che hanno 10.000 euro di bot che già valgono poco, non rendono niente e lo tassiamoli pure all'infinito. Per quello che riguarda invece, vabbè, c'è il variegatissimo menu degli interventi sulle pensioni. Per quello che riguarda i ticket invece, in sostanza da lunedì si parte con questo nuovo ticket da 10 euro su visite e analisi, ma la questione è che il problema non si capisce chi lo finanzierà, perché immagino che partirà subito uno scontro immediato con le regioni che dovranno decidere se metterlo pagando di tasca propria o mettere più mini ticket per pagare appunto il conto. Vabbè, da settimana prossima vi prometto che comunque su Salvadanaio toccheremo ogni singolo punto che riguarda i piccoli risparmiatori, piccoli consumatori, tutti i cittadini. Vi ricordo che domani il Sole 24 Ore pubblica uno speciale mercati e manovra di 20 pagine, per la verità come sta facendo già da qualche giorno con uno sforzo enorme da parte di tutti i colleghi giornalisti per documentarvi al meglio. E domani c'è anche la guida del Sole, accertamento e riscossione, come difendersi dal fisco. Adesso la borsa. Ciao Condina, buonasera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao, buonasera a voi. Milano chiude con un ribasso di un punto percentuale, chiude con la stessa performance con cui era partito questa mattina. Poi era andato un po' meglio la salute di Milano in concomitanza con l'aste dei titoli di Stato. C'è stato un cambio di direzione, l'aste dei titoli di Stato la racconto dopo. Andiamo subito ai titoli che oggi hanno movimentato di più la seduta, partendo con Luxottica e Fiat Industrial, che sono andati bene perché sono stati promossi da due case di investimento. Sì, due dei titoli, dei pochi titoli positivi, ricordiamolo, titoli che a metà pomeriggio guadagnavano anche più di un punto percentuale, poi come dicevi giustamente tu sono arrivate le vendite, quindi adesso poi i rialzi sono molto limitati. Fiat Industrial più 0,77%, Luxottica più 0,94%, la prima Fiat Industrial corre sul buy di Goldman Sachs, la seconda Luxottica su un altro buy che invece è della casa di investimento svizzera UBS. Che è tradotta insomma in maniera semplice per i nostri nostri ascoltatori, sono due raccomandazioni che dicono comprate questi titoli, quindi praticamente queste due case di investimento raccomandano ai propri clienti di mettersi in portafoglio un maggior numero di questi titoli. Le banche oggi, cioè, come sono andate? Le banche oggi sono andate male, c'è grande attesa per gli stress test che saranno pubblicati domani. Insomma, tutti ribassi superiori ai 2 punti percentuali per la maggior parte degli istituti di credito, per esempio UbiBanca -2,7, Intesa -2,1, Monte dei Paschi -2,1, è andato un pochino meglio Unicredito, che ha perso lo 0,3%, ma che nelle ultime sedute era stata molto penalizzata. Ricordiamo. Per Mediolanum c'è anche questo effetto di questa storia di cui si racconta sui giornali, il gruppo che veniva avvisato degli accertamenti della Guardia di Finanza e quant'altro, -3,28% per il titolo del risparmio gestito? Sì, è uno scoop, se così possiamo dire, del Fatto Quotidiano, che oltre al fatto che Mediolanum, secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni dell'inchiesta P4, veniva diciamo preavvertita delle ispezioni della Guardia di Finanza, avrebbe anche in corso un contenzioso col fisco che potrebbe costringerla a pagare qualcosa come 230 milioni di euro, che non sono decisamente noccioline, quindi il titolo ha perso decisamente quota in borsa. E infatti, allora, non mi ricordo se hai citato UbiBanca -2,71, a far compagnia alle banche oggi c'erano anche i titoli del cemento, delle costruzioni, Buzzi -2,67, Impregilo -2,59, Generali -2,42, nonostante il maxi acquisto di Caltagirone, che si è messo in tasca, probabilmente acquistando anche sulla scia della debolezza del titolo degli ultimi giorni, un bel pacchetto azionario. Andrei però in assoluto al peggiore della giornata, Parmalat -5, il nuovo amministratore delegato proprio non piace, CEO. Sì, qui c'è anche una questione di, diciamo, prevalentemente tecnica, suggeriscono gli operatori, infatti si è chiusa l'OPA dei francesi di Lactalis con successo, OPA che era fissata a 2,6 euro, da quel momento il titolo si è proprio sgonfiato, come si suol dire, infatti oggi ha perso il 5,29% ed è arrivato a 2,22 euro. Abbiamo raccontato tutti i principali casi del giorno? Ma fondamentalmente sì. Benissimo. CEO, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Buona Segnalo serata. Magari qualche altro titolo per accontentare gli ascoltatori. Campari +0,35, almeno quelli che hanno chiuso bene la giornata. Exor +0,28, Telecom +0,06. Fra i titoli minori segnalo il +9,92% di Meridiana Fly. Il peggior titolo è Italy One Investment -15%. E questi appunto sono i casi, come dire, estremi da una parte all'altra della classifica. Le altre borse europee: Parigi -1,11, Francoforte -0,7, Londra -0,92, euro su dollaro a 1,41,70. Andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio prima di fare i bond. Allora, tra poco. Eh sì, mi continuate a chiedere dettagli sulle novità portate alla manovra economica, quella che oggi ha avuto il via libera, la fiducia ha avuto il via libera appunto in Senato. Io non ho tutti questi dettagli, non riusciremmo comunque a potervi dare tutti quanti i dettagli. Un altro ascoltatore chiede la questione sulle rendite finanziarie, se andrà al 20%, rimane al 12,5%, non ho questo dettaglio, per la verità questo era un provvedimento appunto che avrebbe richiesto un po' più tempo rispetto invece a quelle misure contenute nel decreto applicato da subito. Allora, un'altra ascoltatrice che saluto ci chiede invece perché Deborah non lancia un appello, vogliamo muoverci e protestare fino a quando non tagliano i costi della politica come si deve. Io in questo momento sono titolare in via provvisoria di una trasmissione, al legittimo titolare chiederò domani magari di accompagnarvi in questa battaglia, se lo riterrà opportuno, ma sono sicura che raccoglierà sicuramente il messaggio. So che Sebastiano, insomma, appassionato di questi argomenti. Allora, di che cos'altro parliamo adesso? Intanto saluto la nostra ospite, Elisabetta Villa, gestore obbligazionario di Anima SGR. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, è stata una settimana molto calda per il mercato italiano, perché a prescindere da quello che è successo in borsa, questa settimana abbiamo monitorato fino all'ossessione, fino allo sfinimento, l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato del nostro paese. Per le oscillazioni che ha vissuto lo spread, il differenziale di rendimento tra il titolo decennale italiano, il BTP, e il benchmark europeo per eccellenza, che è il Bund tedesco. Ma soprattutto questa settimana abbiamo avuto due aste molto importanti. Abbiamo avuto un'asta di bot annuali martedì scorso che sono stati ben collocati appunto sul mercato, ma il Tesoro ha dovuto riconoscere un tasso di rendimento al 3,67% dal 2,14 dell'asta precedente, quindi un punto e mezzo in più secco in un'unica asta nel giro di pochissime settimane. E oggi abbiamo avuto invece altre due aste: BTP 5 anni e 15 anni, delle scadenze importanti anche queste, e Elisabetta Villa, io non la voglio ripetere, la notizia l'ho detta all'inizio, ce lo dica lei un po' come si sono concluse queste aste, se come operatori ritenete che in qualche maniera, a prescindere dal fatto che i rendimenti che il Tesoro ha dovuto riconoscere sono stati più alti, comunque è stato un appuntamento sereno per il Tesoro? Assolutamente sì, nel senso che le aste sono state ben ricevute dal mercato, la domanda è stata solida, ricordiamo che il Tesoro in via probabilmente precauzionale aveva abbassato, ridotto le quantità in asta, per cui voleva collocare un massimo di 5 miliardi, questo ha fatto, 4 miliardi e 950 sono stati collocati, con una domanda che però è stata 1,7 volte l'offerta, per cui la domanda è stata di 8,5 miliardi circa, per cui aste che sono state ben ricevute dal mercato, un mercato primario quindi che ha dimostrato di funzionare nonostante l'incertezza, la volatilità, la paura che si è vista in questi giorni, e un mercato secondario anche che ha continuato regolarmente a funzionare, per cui questo è stato un test passato bene dall'Italia. Come diceva lei prima, i tassi sono decisamente superiori rispetto alle aste precedenti, abbiamo visto 150 basis point, un punto e mezzo sul bot e più o meno un punto percentuale sulle scadenze di cui stiamo parlando sui BTP, ma lontane comunque dai massimi che abbiamo visto l'altro giorno quando lo spread, il differenziale con il bund sul decennale era 350 basis point, per cui insomma rendimenti alti ma non ai massimi di questi giorni. Villa, come valuta il fatto che in concomitanza con la chiusura dell'asta, esito con successo, rendimenti più alti come comunque era nelle attese, la borsa abbia girato immediatamente a ribasso? Ma non so, i miei colleghi relazionali dicevano vendere sulla notizia, però devo dire che l'umore per quanto riguarda l'obbligazionario non era dei migliori dall'inizio, nel senso il mercato ha aperto più debole rispetto a ieri, forse proprio per la tensione con l'avvicinarsi dell'asta, ma anche un po' per la delusione circa il mancato annuncio del meeting europeo che pareva si dovesse tenere domani, nel senso che molte delle preoccupazioni che hanno coinvolto l'Italia in questi giorni sono legate alle vicende interne politiche, sicuramente tentennamenti, ma anche alle vicende politiche europee, voglio dire questo continuo posticipare, procrastinare la soluzione greca, la soluzione di un pacchetto definitivo in relazione alla Grecia e agli altri paesi sotto aiuto, sicuramente non mette di buon umore i mercati, e questo un po' è stato testimoniato dall'andamento della borsa anche. Il differenziale di rendimento fra i nostri BTP e il Bund tedesco oggi ha riflirtato di nuovo con 300 punti base, Villa. Sì, è un differenziale poco spiegabile a mio parere, perché non mi spiego questo aumento rispetto al 120-150 che vedevamo qualche mese fa, cioè nei fondamentali dell'Italia non è cambiato nulla, questa manovra è una manovra che vuole portare il deficit italiano in pareggio nei prossimi anni, per cui è una manovra che diciamo sottostà alle regole europee, più che sottostà, anzi porta l'Italia molto avanti rispetto alla più parte dei paesi. C'era chi qualche mese fa parlava dell'Italia non come periferico ma come semi-core, per cui mi chiedo veramente che cosa sia cambiato, che cosa è cambiato? È cambiata una percezione di incertezza probabilmente, e anche un po' l'effetto contagio, voglio dire, quando sono stati rimossi dal mercato Grecia, Portogallo e Irlanda, il prossimo anello debole, il paese da vendere per sottopesare l'Europa non core è l'Italia, per cui probabilmente… Quindi ecco, quando parliamo di domino intendiamo anche questo, no? Che debba necessariamente tracollare e arrivare alla bancarotta, ma no, c'è proprio ecco una posizionamento generale degli investitori internazionali che si fa sentire in questa maniera così dirompente. Senta Villa, un'ultima domanda, quali sono i prossimi appuntamenti del Tesoro che dovremo testare e monitorare? Allora, l'appuntamento importante è l'asta medio-lungo termine che si terrà il 28 di luglio. Gli ammontari in asta non sono ancora noti, ci sarà anche un'asta bot il 26 di luglio, sono ammontari importanti comunque perché di solito l'asta di questo periodo è importante, c'è da dire che arriva in un periodo in cui ci saranno anche importanti rimborsi e pagamenti delle cedole, con questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato avrà liquidità da reinvestire nel BTP, con il BTP agosto 11 in scadenza solitamente parte o tutto di queste scadenze viene reinvestito nei nuovi BTP in emissione, per cui questo fa ben sperare nell'asta, però ovviamente si va nel... Chi può dirlo? Stiamo viaggiando un po' così a vista, navigando a vista, come si dice. Grazie Elisabetta Villa, Anima SGR, buona serata. Buona serata anche per la... Buonasera. Grazie per la chiarezza soprattutto delle sue spiegazioni, e tanto per dirvi un po' come si naviga a vista anche nei giudizi nei confronti dell'Italia. Dopo che lunedì ci hanno martellato di vendite, soprattutto se i titoli di Stato hanno fatto i fondi pensione americane, oggi il presidente della Banca Centrale Americana Bernanke si è messo anche a come dire, giudicare davvero irrazionale l'atteggiamento che il mercato internazionale ha avuto nei confronti dell'Italia. L'Italia sta affrontando un certo nervosismo da parte del mercato, ha detto il presidente della Federal Reserve. Il nostro paese, l'Italia, ha comunque dei punti di forza e addirittura pubblicamente in un'audizione alla Commissione Bancaria del Senato americano ha detto il presidente della Fed, Bernanke, ha detto di non prevedere un salvataggio, la necessità di salvataggio per Spagna o Italia. Meno male che l'ha detto, però intanto dagli Stati Uniti sono arrivate segnali differenti negli ultimi giorni, dei quali poi chiederemo lumi anche al nostro Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Ma c'è stata un'altra persona alla quale abbiamo chiesto molte cose, anche sul differente atteggiamento che le agenzie di rating hanno nei confronti del debito sovrano, nella valutazione del debito sovrano europeo e quello americano. E questa figura è quella di Robert Shapiro. Questi punti li toccheremo nella seconda parte di Focus Economia. Prima vi faccio sentire un altro stralcio dell'intervista che Robert Shapiro ci ha rilasciato. Chi è questo signore? Questo signore è stato sottosegretario al commercio durante la presidenza Clinton, è un economista che è molto influente negli Stati Uniti, molto ascoltato soprattutto dagli ambienti del Partito Democratico, e oggi è alla guida dell'American Task Force Argentina. Sta facendo appunto una battaglia che va avanti da anni per obbligare l'Argentina a ripagare i suoi debiti, quelli appunto che non ha voluto pagare 10 anni fa, quando invece questo Stato ha avuto una vera e propria bancarotta. È ritornato in questi giorni a Roma e lo abbiamo intervistato e ci siamo fatti spiegare le motivazioni della sua nuova visita. There is a new issue which has arisen regarding the... C'è una nuova questione che riguarda il debito argentino e che interessa i creditori italiani e le istituzioni finanziarie americane. L'Argentina ha trasferito 45 miliardi di dollari in valuta estera alla Bank of International Settlements in Svizzera. Gli argentini sostengono che i 45 miliardi di dollari sono coperti da immunità. Quindi tutte le azioni legali che i risparmiatori italiani hanno vinto, così come i fondi americani a New York, non possono intaccare quei soldi. Noi siamo qui per dialogare con i funzionari italiani, svizzeri, tedeschi, di questo abuso compiuto dalla banca. La Bank of International Settlements in Svizzera è l'istituto che manovra le transazioni tra le banche centrali e normalmente qualsiasi altro paese tiene dal 2 al 5% delle proprie riserve valutarie presso questa istituzione. L'Argentina ha trasferito in questa banca il 99% della sua liquidità, il 95% delle sue riserve valutarie totali, e ha detto specificamente che lo ha fatto solamente per tenere i soldi alla larga da tutti coloro che hanno vinto cause contro l'Argentina, risparmiatori italiani, fondi, eccetera, e tutti coloro che vantano crediti con il paese. Quindi siamo qui per parlare alla Banca d'Italia e al governo, così come abbiamo fatto con la Svizzera e come faremo in Germania e in Inghilterra, per dire loro che l'Argentina non dovrebbe essere legittimata ad abusare della Bank of International Settlements. L'intervista a Robert Shapiro. Bob Shapiro non si conclude qui, ne abbiamo altre parti che vi faremo ascoltare poi nella seconda parte di Focus Economia. Peraltro, visto che a dicembre di quest'anno saranno 10 anni dal default del paese latinoamericano, così anche un po' in maniera divertita ma non tanto, gli abbiamo chiesto come pensa questa organizzazione internazionale di ricordare questa ricorrenza, se ha intenzione di intraprendere, oltre a queste missioni internazionali e a questi roadshow, altre iniziative ancora più incisive verso questo governo che comunque ha ristrutturato il suo debito. Questo tema del quale si parla tanto per la Grecia e per altri paesi in difficoltà, la ristrutturazione del debito, di fatto l'Argentina l'ha fatto allungando infinitamente le scadenze e quindi ritiene di non aver più motivo appunto di dover restituire alcunché agli investitori internazionali che sono rimasti vittime appunto di questo default di 10 anni fa. Adesso ci fermiamo, c'è il giornale radio, noi ritorniamo con la seconda parte della nostra trasmissione subito dopo. quasi 08, ancora buonasera da Deborah Rosciani che questa sera vi tiene in compagnia per Focus Economia, faccio anche rima e vabbè. Allora, di cosa andiamo a parlare? Il tema principe delle nostre trasmissioni è la condizione del debito sovrano, le grosse preoccupazioni che riguardano l'Eurozona, ma non sono preoccupazioni inferiori quelli che invece riguardano gli Stati Uniti, perché come sapete le negoziazioni sul piano di riduzione del deficit e del debito vanno avanti per evitare anche il default degli Stati Uniti, anche se poi qualcuno non lo vede assolutamente come un'ipotesi possibile, però di fatto stanno proseguendo gli incontri fra il presidente Barack Obama e i leader del Congresso per cercare di raggiungere un accordo entro il 2 agosto. C'è questa scadenza che è tecnicamente molto importante, quando gli USA appunto potrebbero entrare in default. Adesso vediamo insomma in che cosa consiste concretamente questa eventualità, che cosa vuol dire esattamente questa scadenza. Quindi ci sono solo 2 settimane di tempo per convincere Repubblicani e Democratici all'approvazione di un provvedimento che sposti di almeno 3.000 miliardi di dollari il tetto al debito federale fissato per legge a 14.300 miliardi, altrimenti sarà tecnicamente un default finanziario. Siccome le agenzie di rating naturalmente non è che guardano solamente a quello che succede in Europa, guardano anche a quello che succede negli Stati Uniti, sulla scia di tutta questa discussione ieri che cosa ha fatto Moody's? Ha fatto sapere che se non ci si sbriga al Congresso americano potrebbe essere abbassato il solidissimo rating dei treasury statunitensi, dei titoli di Stato appunto americani. In questo momento il rating americano è il massimo possibile, c'è una solidissima granitica AAA sulle debito appunto statunitense, ma Moody's ha detto: io intanto vi metto sotto sorveglianza. Metto sotto sorveglianza il rating AAA attribuito alle obbligazioni dello Stato federale americano e state attenti che se non vi sbrigate appunto a prendere le misure necessarie per aumentare il tetto del debito, io abbasso il mio giudizio nei confronti appunto dei titoli di Stato. Allora, di tutto questo parleremo tra qualche istante con Mario Platero. Intanto però prima vi avevo preannunciato che avremo continuato a sentire l'intervista rilasciata, che ci ha rilasciato ieri pomeriggio, Robert Shapiro. Robert Shapiro è un economista molto influente negli ambienti democratici, soprattutto americani. Oggi guida l'American Task Force Argentina, è stato anche sottosegretario al commercio durante la presidenza di Bill Clinton, parte dell'Economic Advisory durante la campagna del presidente Barack Obama. Avevamo un'altra parte dell'intervista preannunciata nella prima parte della trasmissione sulla questione del default dell'Argentina di 10 anni fa, perché questa in questo momento è la sua battaglia, quella di obbligare l'Argentina a ripagare i debiti mai pagati 10 anni fa. In realtà io adesso, se Fabio Cantadori è d'accordo, farei invece ascoltare l'altra parte dell'intervista a Shapiro. Gli abbiamo chiesto proprio un commento sulla situazione europea e gli abbiamo domandato perché la situazione degli Stati Uniti, che sta traballando anche finanziariamente e politicamente in questo momento, sembra preoccupare meno rispetto alla situazione europea e rispetto alla situazione italiana in particolare. Sentiamo un po' che cosa ci ha detto. But the American debate is very different because there's no question of an economic default. La situazione degli Stati Uniti è molto differente. Non è in questione il default economico del paese e nemmeno la capacità degli Stati Uniti di ripagare gli interessi del proprio debito. Gli Stati Uniti rappresentano il 22% dell'economia globale. Può essere che le agenzie di rating abbiano un punto di vista differente su questo, ma non gli investitori internazionali. I tassi sui prestiti sono a livelli storicamente molto bassi. Se gli investitori internazionali avessero dubbi sulle capacità degli Stati Uniti di ripagare i propri debiti, i tassi salirebbero molto, ma questo invece non accade. I tassi di interesse negli Stati Uniti non si stanno alzando. Questo significa che sì, gli investitori globali sanno che gli Stati Uniti hanno seri problemi di deficit sul lungo termine, ma che lo risolveranno, perché è ciò che abbiamo fatto negli anni 80 e 90. Ci sono enormi differenze tra la situazione italiana e quella americana. Una è che voi avete una rete di protezione molto più generosa, una situazione demografica peggiore che comporta una contrazione della forza lavoro e un sistema pensionistico molto più vantaggioso e generoso rispetto a quello americano. Tutto questo è molto meno sostenibile. Inoltre, la produttività dell'Italia non è paragonabile nemmeno in piccola parte a quella degli Stati Uniti. Quindi ci sono enormi differenze sia da un punto di vista economico che legislativo nelle sfide che entrambi i paesi stanno affrontando. Noi, senza ombra di dubbio, stiamo affrontando la nostra. Abbiamo un problema, ma il mercato ritiene che potremo risolverlo, così come abbiamo fatto in passato. In questo momento siamo al centro di una brutta battaglia politica per quanto riguarda l'innalzamento del tetto del debito, e questo aumenta la possibilità di un default tecnico, che tuttavia non è un default dovuto a una mancanza di fiducia nella capacità economica degli Stati Uniti da parte degli investitori mondiali. Si tratta di una questione politica tra i repubblicani, che poco sanno di economia, e il presidente degli Stati Uniti. Ho fiducia nel fatto che risolveremo questa battaglia politica e che alla fine i repubblicani abbasseranno le armi e il tetto del debito verrà alzato e noi proseguiremo nei nostri sforzi per mantenere sotto il controllo il nostro deficit, così come abbiamo fatto negli anni passati, negli anni 80 e 90. Ma la cosa più importante è che non abbiamo perso la fiducia di coloro che finanziano il nostro deficit, vale a dire investitori globali, e questo è dimostrato dai tassi molto bassi. Voi invece avete un problema. La ragione per cui sappiamo questo è che i vostri tassi di interesse sui prestiti a lungo termine stanno aumentando rapidamente. Mario Platero, buonasera. Hai sentito come si è piccato Robert Shapiro quando gli ho fatto la domanda sulla probabilità del default americano? Lui ci ha tenuto a spiegarmi molto dettagliatamente come fosse una questione sostanzialmente tecnica, perché in ogni caso nei confronti della comunità degli investitori internazionali gli Stati Uniti non hanno alcun problema di affidabilità. Però insomma Moody's va messo comunque vi ha messo sotto osservazione, io ormai ti tratto esattamente come se fossi americano, lo sei a pieno titolo. Mario, insomma, cosa pensi di queste riflessioni nel momento in cui anche il Minnesota, guarda, comunque ha tracollato? Allora Deborah, allora guarda, ti dico, ho avuto un'esperienza molto simile ieri sera, perché mi sono trovato in un programma televisivo della PBS, il News Hour, in cui fanno delle discussioni approfondite su tematiche di questo genere, e dall'altra parte c'era Ken Rogoff, che è un economista di un esponente molto alto del Fondo Monetario Internazionale, un ex esponente. Era stato il capo del Centro Studio del Fondo Monetario, adesso è professore a Harvard, ha scritto un libro sul debito, insomma una grande autorità in materia. Ebbene, devo dirti che mi ha colpito perché aveva un atteggiamento un po' superficiale nei confronti di quel che succede in Europa e così vagamente orgoglioso di quello che succede qua, cosa che credo, e tu sai quanto io prenda le parti dell'America spesso e quanto in genere così metta sotto osservazione quello che succede da noi. Ebbene, è un po' come se non si rendessero conto del problema che hanno, perché ieri il Presidente degli Stati Uniti è uscito dall'ufficio Oval sbattendo la porta, attaccando i repubblicani, ha interrotto il dialogo perché non si mettevano d'accordo su alcuni elementi essenziali di quello che si deve fare sul bilancio americano. Nello stesso momento arriva Moody's che minaccia un downgrading. Il problema, sottolineo, qui non è il problema del debito, perché sono d'accordo poi in fondo con Shapiro, alla fine un accordo per evitare il default lo troveranno, il loro è un default tecnico se non aumentano l'autorizzazione ad aumentare, diciamo, l'indebitamento, non hanno i soldi per poter pagare i conti, però è una cosa tecnica, non riguarda il mercato è pronto a dare i soldi agli Stati Uniti e dunque ci sono sicuramente queste, ma il problema vero è l'economia americana sta andando malissimo, il tasso di disoccupazione è salito al 9,2%, nel mese di giugno sono stati creati soltanto 18.000 nuovi posti di lavoro, può sembrare molto, ma diciamo che le aspettative delle amministrazioni e della Federal Reserve erano delle aspettative di creare in questo momento, in questo periodo della ripresa, 300 o 400 mila posti di lavoro al mese. Certo. Non ci siamo, le cose non vanno. Mario, sì. No, devo, guarda, Mario, devo interromperti. Sì, no, perché ho solamente suggerimenti perché in viaggio. Dammi un minutino di tempo, vogliamo sentirti per bene, solo un attimo. Mario Platero da New York. Allora, dipingevamo la pessima situazione economica americana nella quale si inseriscono le schermaglie politiche per arrivare all'approvazione dell'autorizzazione all'aumento del tetto del debito. Sì, esatto. Cioè, dicevo che sono due elementi paralleli. Da una parte c'è un dibattito per la riduzione del disavanzo pubblico e quindi l'accordo politico per aumentare il tetto sul debito, e in effetti ha una connotazione tecnica, ma dall'altra c'è l'economia che non funziona. Ben Bernanke sta testimoniando in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, ha avuto un'altra audizione ieri davanti alla Commissione Finanza alla Camera, e ha fatto capire che è pronto a intervenire con una nuova manovra accomodante, tipo QE3 per intenderci, cioè quantitative easing, cioè quello strumento attraverso il quale la Fed interviene sul mercato e acquista obbligazioni del tesoro americano, introducendo così liquidità sul mercato. L'ha già fatta questa operazione negli ultimi 6 mesi per 600 miliardi di dollari, è finita giugno, ebbene il risultato è stato che non c'è stato quell'aumento dell'occupazione che si aspettava. Dunque è vero che gli americani difendono la loro situazione ed è vero che l'America sta infinitamente meglio di molti di noi, però ha dei problemi ormai strutturali non da poco, e di questo credo che non se ne rendano completamente conto molti degli economisti, molti degli esperti americani. E mentre Obama tratta Mario senza sosta per evitare il default tecnico da appunto scongiurare entro il 2 agosto, è fallito il Minnesota. Su cartelli affissi in tutti gli uffici pubblici dello Stato appare la scritta shutdown. 24.000 dipendenti statali che da giorni bivaccano davanti alla sede del governo federale hanno chiuso i parchi pubblici, bloccato i lavori di strade e altre infrastrutture. La gestione qua del Partito Repubblicano, che guida lo Stato da un ventennio, fatta di tagli alle tasse per i ricchi e tagli al welfare, sembra troppo dispendiosa. Questo è il Minnesota, la California non è che se la passi molto meglio. Avete comunque anche negli Stati Uniti delle piccole situazioni greche? Sì, con la differenza che poi, ed è questo poi il punto di cui si dibatte poco, o forse si dovrebbe dibattere di più da noi, con la differenza che fanno tutti parte di un'unione federale, con la differenza che spesso queste situazioni di nuovo derivano da imposizioni di avere un bilancio in pareggio, cosa che spesso sappiamo non è possibile, come per esempio nel caso del Minnesota, perché ci sono delle liti politiche sul da farsi, e dunque quando ci sono queste scadenze, ecco, il Minnesota è un assaggio se vuoi, quando ci sono queste scadenze spesso la battaglia politica è tale per dire benissimo, allora arriviamo a chiudere tutto così vediamo poi chi vince. È brutto perché si va a giocare sulla pelle degli altri. Nel caso americano, con la scadenza del 2 agosto, quindi a livello federale, non voglio neanche immaginare che questo succeda, perché si tratterebbe di giocare con la pelle di tutto il mondo, perché una chiusura del governo americano avrebbe una ripercussione tale sulle finanze globali che avremmo una crisi forse peggiore. Con Lehman Brothers non abbiamo visto niente praticamente. Ecco, esatto, ecco. Con Lehman Brothers non abbiamo visto niente. O aggiungo un altro elemento molto interessante, cioè se dovesse davvero esserci, perché finora sono state minacce di ridurre il credit rating, dunque il voto al rischio americano, ma se ci dovesse essere un passaggio da un triplo A a un doppio A, questo sarebbe uno sconquasso, perché il triplo A americano è il punto di riferimento su cui tutte le altre organizzazioni di rischio, su valutazioni di rischio, sono calcolate. E dunque altri paesi, per esempio il nostro, si troverebbe ad avere un'automatica svalutazione. E dunque aumenterebbe ulteriormente il nostro costo del denaro. Dunque speriamo che questo non succeda. Anche perché poi la Cina non è che può venire in soccorso a tutto il mondo all'infinito. Parliamoci anche chiaramente da questo punto di vista. Ti rifaccio a riascoltare, Mario, se ti interessa, un altro stralcio dell'intervista che ho fatto a Bob Shapiro, che non so poi se tu consideri molto autorevole anche nelle sue dichiarazioni. In sostanza è quanto è influente, secondo il tuo punto di vista, negli Stati Uniti questo personaggio. Comunque quando viene qua sempre un pochino di clamore lo crea. Gli ho chiesto per quale motivo i fondi americani sono scappati, soprattutto tra venerdì e lunedì, così tanto dall'Italia. Sentiamo che cosa ci ha risposto. Non mi sono preoccupato per la situazione del debito sovrano europeo per circa un anno e mezzo, come invece hanno fatto molti economisti. Agli occhi di un americano, le condizioni dell'eurozona sono difficili, soprattutto per sostenere i paesi che non sono molto produttivi. Sto pensando alla Grecia, al Portogallo, e aiutarli ad aumentare la loro competitività. e questa difficoltà comporta l'esigenza da parte dei governi di aumentare il proprio deficit. Questa situazione non è sostenibile a lungo e se si sviluppa una crisi, questa può portare a una crisi del debito sovrano, come è accaduto in Grecia e in Portogallo. Io mi rendo conto che ci sono delle ragioni politiche che spingono a maneggiare la situazione in modo tale che la gente possa dire no, questo non è un default, ma il punto è che se un paese non ripaga i propri interessi in base a tempi stabiliti, senza aver riscadenziato il debito attraverso accordi con i creditori, questa io la chiamo crisi del debito, default, chiamatelo come volete. Questo è ciò che accadrà quasi sicuramente in Grecia e Portogallo, a meno che Germania, Francia, Italia e Spagna non vogliano continuare a salvarli per sempre. Ci sarà un effettivo default in Grecia. La questione è vedere come l'Europa risponderà a questo e se verrà riformato il sistema di regole dell'Eurozona. Il secondo punto è capire se l'Europa sarà in grado di creare quello che in America si chiama firewall, un sistema di protezione dai problemi che ci sono in Grecia, Portogallo e Irlanda e da quelli riguardanti la fiducia nei confronti del debito spagnolo e italiano. Non lo so. Questo però, a mio avviso, è stato il traguardo degli ultimi 6 mesi. L'idea era che se avessero salvato la Grecia, avrebbero in questo modo creato un sistema di protezione, ma così non è accaduto. Quindi è necessario trovare un modo nuovo per creare un sistema di protezione. La ragione per cui gli investitori americani stanno uscendo dall'Italia è la stessa di molti altri investitori stranieri, perché hanno paura che si diffonda un contagio e che se non vendono adesso, i prezzi si abbasseranno ulteriormente. Mario, anche Ben Bernanke oggi al congresso americano ha voluto rassicurare pubblicamente sulla situazione italiana. Come mai è arrivato a parare su questo argomento? Perché chiaramente di questo si parla al congresso e naturalmente si devono inevitabilmente affrontare questioni di contagio e dunque Bernanke ha detto che c'è un buon programma che dovrebbe essere approvato appunto tra oggi e domani, però se mi consenti, siccome Shapiro ha scritto un libro praticamente nelle poche parole, vorrei rispondere rapidamente punto per punto. Produttività, è vero, noi non siamo competitivi, l'occasione mancata di quello che stiamo facendo noi in Italia, secondo me è un accordo bipartisan tipo quello che stiamo facendo in America per mettere insieme le forze politiche e aggiungere al pacchetto di austerità un programma di riforme strutturali. Sì. Riforme strutturali aiutano la crescita e dunque sono fondamentali, l'occasione per farlo è questa. Beh, l'opposizione quantomeno ha detto non fanno ostruzionismo, quindi quantomeno un gesto di buonsenso l'hanno fatto. Comunque quindi sono d'accordo con Shapiro su questo. Il default, su questo non sono d'accordo con Shapiro, perché di nuovo confonde le cose. È chiaro che nel momento in cui non si pagheranno certi interessi sul debito, lo si sarà fatto sulla base di un accordo di ristrutturazione del debito. Non sarà uno shutdown tipo quello in Minnesota, ci sarà un accordo che è già in discussione tra l'altro a livello europeo per far ricadere un po' sulle banche una parte di questa ristrutturazione, cioè allunghiamo la scadenza del debito, invece di avere la scadenza fra un anno ve la facciamo fra 10 anni e dunque questo può essere ridistribuito in modo abbastanza morbido, però le agenzie per la valutazione del credito e come vedi lo stesso Shapiro dicono no, allora quello diventa un default. Infine il contagio. Beh, il contagio c'è, ce ne siamo accorti da noi, perché è assurdo quello che è successo da un punto di vista di reazione isterica del mercato, che però dobbiamo mettere nel conto. Però, attenzione America, perché questo contagio, una volta che ha fatto il giro degli anelli più deboli della catena, arriva anche agli Stati Uniti d'America e di questo ho avuto conferma da una conversazione che ho avuto col capo economista uscente dell'amministrazione Obama, il quale dice, beh sì, effettivamente i mercati sono imprevedibili e se c'è un attacco del mercato all'America, beh, neanche l'America potrà difendersi fino in fondo. Dio salvi l'America. Grazie a Mario Platero per la sua corrispondenza da New York questa sera. Grazie a Barbara Bianchi, Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Stasera Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Deborah Rosciani lascia il microfono a Giuseppe Cruciani per La Zanzara. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Domani sera torna Sebastiano Barisoni. O domani di nuovo al timone di Salvadanaio. Non mi ricordo neanche più come si chiama la mia trasmissione. A tutti, buona serata. Radio 24. La passione si sente.